La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato a Papa Wojtyła, leader globale e grande comunicatore. Ospite ai nostri microfoni Roberto Monteforte, autore del volume Pope Star, luci e ombre del pontificato di Giovanni Paolo II, pubblicato da Editori Internazionali Riuniti. È il 16 ottobre del 1978. A 58 anni il vescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, viene eletto papa. È il primo papa slavo della storia della Chiesa, il primo papa non italiano dal 1378, se si eccettua il breve pontificato di Adriano VI nel 1522. Ha inizio un pontificato lungo 27 anni, che come sappiamo cambierà in modo profondo il modo stesso di essere della Chiesa nei tempi moderni. Un papa cosmopolita, globale diremmo oggi, che esercita una leadership planetaria senza precedenti. Un grandissimo comunicatore, certo, un papa che rompe gli schemi rigidi del protocollo, parla direttamente con linguaggio diretto, franco. Un papa che è riuscito a dare un'identità globale a una Chiesa in lotta contro i totalitarismi, contro la secolarizzazione. Dopo la sua morte è stato oggetto del più rapido processo di canonizzazione mai subito da un pontefice. Processo, lo ricordiamo, chiusosi lo scorso 1 maggio con la beatificazione. Ma se guardiamo a fondo dentro il lungo pontificato di Giovanni Paolo II, al di là dell'esaltazione della retorica che rischia di ridurre una figura di tale portata a una sorta di icona mediatica, allora possiamo provare ad analizzare un papato che presenta anche luci e ombre. Oggi affrontiamo questo percorso, al di fuori degli schemi precostituiti, potremmo dire, con Roberto Monteforte, vaticanista dell'Unità, che ha appena pubblicato per le edizioni dei Nuovi Editori Riuniti un libro dal titolo molto significativo e anche provocatorio. Pope Star, luci e ombre del pontificato di Giovanni Paolo II. Roberto Monteforte è con noi in studio. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera. Vorrei iniziare con te questo viaggio nel pontificato di Giovanni Paolo II partendo da uno dei momenti più alti e significativi del suo pontificato. È il 9 maggio del 1993. Il Papa è in visita in Sicilia, incontra il clero, le autorità, i giovani e i lavoratori di quella bellissima terra, tu scrivi nel libro, imprigionata dalla mafia. Va a trovare i genitori del giudice Rosario Livatino. Ne esce con il viso tirato. Nella cornice della splendida Valle dei Templi ad Agrigento lancia a sorpresa un'invettiva durissima. Dio ha detto una volta, non uccidere, non può uomo, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Ecco Roberto Monteforte, questa invettiva di Papa Wojtyła contro la mafia possiamo definirlo uno dei momenti più alti del suo pontificato. La Chiesa si schiera senza dubbio dalla parte delle vittime. E perché Giovanni Paolo II sceglie di pronunciare questo duro anatema? Intanto occorre ricordare che è tutto fuori programma. Il Papa Wojtyła rompe il protocollo, incontra i familiari di questo giovane magistrato che tra l'altro è in corso anche una causa di beatificazione, quindi era un cattolico credente, sceglie di rompere il protocollo, parla direttamente, affronta il male a viso aperto e cerca di dar forza al popolo siciliano e alla Chiesa siciliana. Sicuramente non c'è stato nessuno che ha avuto quel coraggio di parlare in modo così forte, chiaro e intransigente. C'era anche chi nella Chiesa, pur diciamo così, esprimendo critiche, poi nei fatti tollerava o diciamo così aveva rapporti o benediceva questo tipo di potere, perché è un potere fatto di tante cose che si intrecciano: gli affari, la politica, le istituzioni, non soltanto quello malavitoso in senso classico. E quindi il Papa, non soltanto in quell'occasione, ma anche il giorno dopo a Palermo, ritorna su questo argomento e crede che ci sia una classe politica all'altezza della prova, che rompa gli schemi e assicuri dignità all'uomo. L'uomo è il punto centrale del suo pontificato. Ecco, allora, veniamo al tuo libro Alle luci e ombre del pontificato. Si tratta di un papato lungo 27 anni, è molto complicato riassumerlo e sintetizzarlo in pochi minuti, ma vediamo quali le luci principali, quali le ombre. Beh, intanto da queste parole si capisce qual è una delle luci di questo pontificato: l'attenzione all'uomo, l'attenzione alla libertà dell'uomo, che per Papa Wojtyła voleva dire fondamentalmente libertà religiosa. È il primo punto che lui pone. E quindi c'è molta l'influenza dell'esperienza polacca. Era un polacco, ha vissuto il dramma della sua terra e della sua storia, e questo tipo di rapporto con la sua terra e la sua storia segnerà anche il suo pontificato. Quel tipo di esperienza, quel tipo di rapporto molto duro con il potere, che ha molto condizionato e anche oppresso la Chiesa, renderà in qualche modo quel tipo di modello, il modello di Chiesa planetario di questo pontefice. Era ed è stato un Papa planetario, cioè che ha parlato a tutti quanti i continenti, dando alla Chiesa quel carattere di universalità che tutti si attendevano dopo il Concilio Vaticano II. Invece le ombre, c'è qualcuno che dice, sì, però il grande innovatore alla fine affida la dottrina al Cardinal Ruini, che è esponente dell'ala, diciamo, più conservatrice della Chiesa. È vero questo? È una critica giusta? È una critica che io nel mio libro rilancio, ma è dentro il ragionamento che si faceva prima. Una critica forse ancora più, come dire, che viene ancora prima, è la seguente. Il modello polacco consentiva di leggere la complessità del mondo contemporaneo, dava conto, per esempio, dell'impegno per la liberazione in America Latina, di una Chiesa che si schierava a difesa dei poveri in un modo molto convinto e anche radicale. E in Italia quel tipo, diciamo, di modello dava conto di un'articolazione politica che vedeva anche il laicato cattolico agire in autonomia e cercare, come in fondo diceva Paolo VI ancora prima Giovanni XXIII, di incontrare chiunque fosse attento ai destini dell'uomo, quindi tutti gli uomini di buona volontà. E questo è il punto. Allora quel modello polacco portava dentro di sé anche una carica di integralismo che ha reso difficile una comprensione più profonda e più attenta e più rispettosa della diversità. Ad esempio, collegandomi a questo discorso, si può osservare come Papa Giovanni Paolo II fosse, e lo dicono insomma tutti ormai gli storici, non certo molto attento alla teologia della liberazione, dunque a tutti quei movimenti che dal basso in qualche modo spingevano per proporre un nuovo modello di Chiesa. Ma il primo viaggio che fa Giovanni Paolo II è andare a Puebla, all'Assemblea dei Vescovi dell'America Latina, per fondamentalmente sconfessare la linea prevalente di quei vescovi, quindi non del semplice clero, ma dei vescovi dell'America e anche dei cardinali dell'America Latina, che era quella di mettere al centro della Chiesa l'attenzione ai poveri e, diciamo, lo sfruttamento non soltanto del singolo povero, ma di paesi interi. Lì Wojtyła va e praticamente sconfessa la teologia della liberazione a Puebla, che era figlia del Concilio Vaticano II, e impone una svolta normalizzatrice molto severa. Allora, io vorrei trattare adesso il rapporto di Giovanni Paolo II con i giovani e con i mezzi di comunicazione di massa. Allora, cominciamo dal suo rapporto speciale con i media. Un grande comunicatore, abbiamo detto. Sicuramente. Ha usato il suo corpo per comunicare, tutto se stesso per comunicare. In fondo la sua passione per il teatro, sin dall'inizio della sua gioventù, no, seguita, insomma, praticata, gli ha offerto degli strumenti straordinari. Era un grande attore, ha scritto opere teatrali, ha vissuto sempre insieme ai giovani. Quindi le due cose sono un po' intrecciate, comunicatore con i giovani. È stata un po' la sua chiave. E in questo c'era un elemento forse specifico, forse unico. Non era affatto un uomo clericale, ecco, la sua laicità nei tratti, nei modi. E ancora, sembrerebbe contraddittorio, ma sono molte le contraddizioni, diciamo, di questo pontefice, almeno apparenti, fortemente mistico. Due elementi che gli hanno consentito di arrivare direttamente al cuore delle persone. E il cuore più sensibile spesso è quello dei giovani. E li ha invitati a testimoniare, diciamo così, la speranza, e quindi l'idea di futuro. E ha chiesto allora un impegno forte da questo punto di vista. Beh, allora un motivo in più per leggere questo bel libro di Roberto Monteforte, perché in questo modo potremo sicuramente entrare dentro un personaggio che, come abbiamo ascoltato, è un personaggio molto complesso e al tempo stesso rifuggire in qualche modo dalle tentazioni mediatiche che cercano quasi di ridurre questa figura a un'icona, Roberto. E questo è un punto. Io sviluppo un ragionamento un po' critico rispetto ai tempi della beatificazione, perché alla fine la forza mediatica di questo pontefice può aver addirittura facilitato una gestione, tra virgolette, secolarizzata di questa figura. È come se diventasse lui la risposta alle domande di ciascuno e diverse di sacro. Ma non era proprio questo uno degli obiettivi contro cui si è battuta la Chiesa di Wojtyla, cioè battere la secolarizzazione, la religione fai da te? Allora forse occorreva aspettare ancora un po', perché ci fosse un'idea più chiara di questo Papa, di questo pontefice, di questo testimone. E forse, aggiungo, recuperando anche la voce, l'esperienza e il volto di tanti altri testimoni che aiutano la Chiesa a essere veramente oggetto di speranza per tanti. Bene, allora con questo interrogativo molto interessante vi salutiamo, grazie a Roberto Monteforte e buona serata a tutti.